Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Di alcune persone si dice ha un portamento regale, cammina bene, si muove con eleganza, non è mai goffa. Sono poche, ma ci sono. E non sono solo modelle o ballerine di danza classica. Provate ad andare su internet, ho visto che ci sono addirittura corsi di portamento per spose, per ragazze, anche per uomini. Io penso che l'eleganza sia innata, anche quella nell'incedere, ma sono certa che qualche cosa si possa fare. Forse basterebbe evitare posture scorrette, che tra l'altro non ci donano neppure le classiche spalle curve, la pancia abbandonata a se stessa, ma insomma posso sbagliarmi. Voi che dite? Intanto saluto il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, ben trovata. Vorrei da lei un parere tecnico, dottor Melegatti. Bene, stiamo parlando di postura naturalmente. Postura, a me piace pensare alla postura come un adattamento che noi abbiamo, quindi personalizzato, che ciascuno di noi ha all'ambiente che ci circonda, ambiente fisico ma non solo, anche all'ambiente psichico e all'ambiente emozionale. È un po' l'atteggiamento che noi assumiamo nello spazio, è il modo di porci nello spazio proprio per relazionarci con l'ambiente esterno. Esistono posture buone e posture cattive naturalmente, come lei ha ricordato. Suo marito sa che lei è restia a testimoniare, ma all'improvviso lei diventa imprevedibile. Ma quindi stia dritta e cammini con sicurezza. In questo modo. Io lo chiamo ancheggiare in punta di piedi. Coraggio. Ascolti il suo avvocato. Spalle in basso e petto in fuori. Ancheggiare in punta di piedi. Ci sono amici, amiche che riconosceremo in mezzo ad una folla solo dal modo di camminare, perché la postura, cioè, come ricordava il dottor Melegatti, il modo in cui posizioniamo il nostro corpo nello spazio mentre stiamo fermi o quando ci muoviamo, è assolutamente personale. Dipende dalla nostra struttura fisica, dalla nostra forma fisica, ma anche dal nostro stato d'animo. Chi ci conosce non ha alcuna difficoltà, ad esempio, a capire che cosa stiamo vivendo. Basta che osservi la nostra postura, dottor Melegatti, è così. Se siamo tristi, siamo un po'... Assolutamente, dice tantissimo di noi, è un po' il nostro biglietto da visita, la nostra postura. E dice tanto di noi, dice di come siamo in quel momento, se siamo tristi, se siamo allegri, se abbiamo qualche disagio. Mi viene da pensare a quelle ragazzine che spesso noi vediamo nei nostri ambulatori che soffrono di problemi posturali, perché tengono un atteggiamento un po' dimesso, un po' nascosto, e sono in genere ragazzine per esempio che hanno un seno molto, molto importante e tendono a, è quasi come se cercassero di nasconderlo, perché crea un po' di impaccio magari a una certa età, molto giovane, e quindi questo crea una postura classica, la postura delle spalle in avanti, del capo in avanti, posture che poi se mantenute nel tempo possono darci qualche dispiacere. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi è pancia in dentro e petto in fuori. Allora proviamo a controllare la nostra postura con gli occhi del corpo. Lo facciamo oggi con Alessandra Callegari, counselor, esperta di bioenergetica, formatrice. Ciao Alessandra. Ciao. Che è qua in studio con noi. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, tu hai detto pancia in dentro, petto in fuori, e mi verrebbe da dire con cautela, nel senso che se pancia in dentro vuol dire pancia contratta, muscolatura addominale contratta, no. Buono. E giustamente anche hai fatto presente che c'è una postura in piedi da fermi e una postura in piedi in movimento, sì. No? Quindi diciamo l'atteggiamento di chi cammina con aria regale lo vediamo nell'incedere, nella camminata eccetera, ma mi sentirei di consigliare ai nostri ascoltatori di fermarsi un attimo invece su quella che è la postura da fermi, appunto, no? Perché sì. È un lavoro tra l'altro che facciamo molto in bioenergetica, no? È chiaro che quando siamo da fermi di fatto dobbiamo tenerci su, no? Abbiamo da contrastare la forza di gravità, quindi una postura da fermi, che peraltro teniamo in molte occasioni della nostra giornata, in bagno, in cucina, le donne quando stirano e così via, o quando aspettiamo quando siamo, no, sul coda, tram, l'auto, certo. Eccetera, È una postura quindi che per impegnativa. Impegnativa e richiede di essere stabili e comodi. Mm. Allora, è interessante vedere che l'assoluta maggioranza delle persone invitata a osservare, appunto, a occhi chiusi, quindi guardandosi, diciamo, da dentro. Con gli occhi del corpo. No, con gli occhi del corpo. La postura in piedi, sia uomini che donne, si mette con una fondamentale caratteristica che è quella che poi appunto fa la differenza, le ginocchia tirate indietro con una sorta di illusione di stabilità, quindi in realtà è una posizione rigidissima, quindi invito proprio gli ascoltatori a farci caso e a provare. Se siete in piedi, occhio alle ginocchia. Allora, basta in realtà allentare la posizione delle ginocchia, quindi eliminare questa tensione indietro, per osservare che cambia tutto. Mentre con le ginocchia tirate indietro siamo rigidi ovunque, quindi abbiamo rigido il bacino, rigida la colonna, le spalle e, cosa importante, siamo contratti sia a livello di muscolatura addominale che a livello di natiche. Sì. Appena lasciamo andare le ginocchia e facciamo attenzione appunto ad avere natiche e ventre rilassato, cambia tutto. E soprattutto, magari ne parleremo dopo, cambia la possibilità di respirare. Vogliamo provare l'ingresso da principessa? Va bene. L'ingresso. Al gran ballo lei entrerà con la regina, ma alla cena di stato farà il suo ingresso non accompagnata. Spalle dritte, sorrida, sono tutti felici di vederla. Dottor Melegatti, allora proviamo a considerare le ginocchia, ma tocchiamo anche la nostra postura, la sentiamo, è proprio il caso di dirlo. Certo, certo, è una cosa che possiamo fare. Accennavo prima a una postura buona e una postura cattiva. In realtà non è così semplice definire buona una postura. La postura è quella che noi abbiamo e quando ci permette di mantenere un buon equilibrio sia statico che dinamico, in genere è quella buona. È vero che ci sono degli eccessi, però ci sono delle posizioni che creano alla lunga tensioni muscolari e che quindi quelle sono più o meno facilmente correggibili. Mi viene in mente un test molto semplice che possiamo fare. Pensiamo di appoggiarci al muro. Sì. Cerchiamo di mantenere i talloni appoggiati al muro, ma così anche il sedere, il dorso e la nuca. In questa posizione dovremmo riuscire abbastanza agevolmente a far sì che le nostre spalle, che anche le nostre spalle tocchino il muro. Dovremmo riuscire a posizionare una mano dietro la nostra schiena in basso e dovrebbe entrare con facilità, così come dovrebbe entrare con facilità anche dietro il nostro rachide cervicale, il nostro collo. Diciamo che quella è una postura accettabile. Se c'è un grande discostamento da questa posizione, allora c'è qualcosa che non va, ci sono probabilmente delle tensioni muscolari in qualche zona del nostro corpo che andrebbero corrette. Dottore, e abbiamo anche, a proposito di tensione, un altro segnale che spesso trascuriamo ed è quel sottile dolorino che avvertiamo, i muscoli che tirano, certo, che sembrano un po' addormentati oppure dolenti, che facciamo fatica a muovere. Anche questo potrebbe essere un'occasione, un segnale per rivedere un po' la nostra postura e soprattutto correggere quelle posture. Penso alle persone che fanno lunghi viaggi in macchina, certo, penso alle persone che stanno tanto sedute alla scrivania, certo, o anche a lungo in piedi, perché ci sono tanti lavori che impegnano, penso alle commesse ad esempio, a chi deve stare dietro a degli sportelli, ecco, cioè a rivedere in che momento della nostra giornata pesiamo sulla nostra postura. È chiaro che più passa il tempo, naturalmente, dipendentemente dal tipo di lavoro, dal tipo di atteggiamento che siamo costretti ad assumere, più passa il tempo e più le nostre contratture muscolari si fanno sentire, sia a livello cervicale, a livello posteriore delle cosce. È molto comune avere gente che si lamenta di dolori nella parte posteriore delle cosce da seduta. Questo è un po' legato in genere a una retrazione della catena posteriore muscolare che viene ulteriormente contratta in una postura da sedute fissa, mantenuta troppo a lungo. Quindi possiamo dire, dottor Melegatti, lamentatevi oggi all'800 24 00 24, se non avete uno specchio, se non potete mettervi in piedi e avete le mani impegnate, per cui non vi è possibile anche tastare la muscolatura dolente, sorridete. We'll be right back. linea con noi abbiamo la dottoressa Veronica Vismar, odontoiatra, esperta di rieducazione funzionale del cavo orale di occlusione. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. A proposito di occlusione, cioè a il modo in cui occlusione, ecco, dobbiamo ricordare che l'occlusione è una delle afferenze, cioè una degli stimoli che può favorire o sfavorire una postura corretta. Abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook un esercizio che abbiamo suggerito proprio ieri ai nostri ascoltatori, ai nostri amici di Facebook, per testare un po' e tastare la nostra postura, partendo proprio da un esercizio molto semplice che, dottoressa Vismara, potremmo raccontare in modo che chi non... è un invito anche a diventare nostri amici su Facebook, ma per chi non fosse ancora amico... lo facciamo amico noi, dottoressa Vismara. Allora, intanto bisogna ricordare che l'occlusione, cioè il modo in cui i denti entrano in contatto, influenza tutti, perché comunque anche chi è bravo e sa, ormai chi ha seguito le sue trasmissioni, Nicoletta, lo sa, che i denti a riposo devono rimanere leggermente distanti, quelli sopra da quelli inferiori, per cui non devono stare a contatto, ma comunque durante la deglutizione a contatto vanno. Per cui se c'è una problematica occlusale, una malocclusione, è normale che questo influenzi, nel maggior caso delle persone, anche la postura. L'esercizio che ho suggerito è un esercizio che una persona può fare autonomamente, poi ci sono degli altri test che uno può fare, ma c'è bisogno di un operatore. Certo. Questo test si chiama test di marcia e può mostrare se ci sono rilevanti coincidenze o comunque influenze tra l'occlusione e la nostra postura dinamica. Quindi intanto bisogna mettersi in piedi in un locale abbastanza silenzioso, comunque con rumore di fondo, tranquilli, e cominciare a marciare. Marciare si intende come le majorette, quindi alzando braccio destro, gamba sinistra e viceversa, e battendo sul posto, marciare sul posto. Sì. Poi bisogna tenere gli occhi chiusi, perché anche lo sguardo, anche la vista è un input, è un'afferenza importante per la postura, per cui se io mi fisso su un punto è chiaro che la mia postura verrà influenzata dalla mia focalizzazione dell'attenzione del mio sguardo su quel punto, e questo lo vogliamo togliere, per cui chiudiamo gli occhi, ovviamente siamo scalzi, cioè senza le scarpe e senza pesi nella parte destra o nella parte sinistra del corpo, quindi portafogli, telefonini, bracciali, eccetera. E poi teniamo i denti a contatto, i denti a contatto senza serrare, e contiamo mentalmente una cinquantina di passi sul posto, alzando bene le braccia, e verifichiamo semplicemente, quando poi abbiamo finito questi passi, dove ci siamo spostati. Allora, per un paziente, una persona che usa normalmente la mano destra, quindi il destrimane, è normale che quella parte, a proposito di catene muscolari, come parlava, come diceva prima giustamente il dottor Melegatti, la catena muscolare che viene utilizzata di più è più contratta, per cui ruoteremo leggermente verso destra, per il mancino al contrario. Se invece vediamo, quando abbiamo aperto gli occhi, che siamo dall'altra parte della stanza, che abbiamo girato tantissimo, allora significa che c'è qualcosa che non va. Allora, per verificare quanto la nostra occlusione influenza la dinamica della nostra postura, è sufficiente mettere dal lato verso il quale ci siamo girati un pezzettino di tovagliolino di carta molto sottile, quelli proprio dal naso, no? Sì. Da naso. Solo nella parte posteriore, quindi dai premolari indietro, e solo dal lato in cui abbiamo girato. E si ripete l'esercizio. Allora, se c'è una grande differenza, quindi mettiamo che rimaniamo dritti a quel punto, significa che l'occlusione influenza molto. Ok, se invece la differenza non è tanto, significa che non è così rilevante. Questo è un semplice test che possiamo fare da soli. Naturalmente, dottoressa Vismara, come lei ha sottolineato, poi ci sono dei test fatti da professionisti che si occupano del nostro problema, e quindi bisogna affidarsi a mani esperte. Ma i test che vi stiamo suggerendo, le prove, quelle che ha suggerito il dottor Melegatti o questa del cammino della majorette, sono sono utili secondo me, e sono contenta di farveli conoscere proprio per aumentare la consapevolezza che è della nostra postura, che è molto importante. E Alessandra, noi dicevamo, è legata anche molto alle nostre emozioni. Assolutamente sì, infatti è vero che anche in bioenergetica si utilizza molto il lavoro sulla postura proprio per far vedere come addirittura assumere una postura tipo quella, non so, a spalle ricurve, un atteggiamento così remissivo, induce un cambiamento emozionale, mentre far assumere una posizione a spalle aperte, diciamo fiera, induce un tipo di emozione diverso. Quindi è molto interessante. Infatti apri le spalle E ti senti già diverso. Abbiamo chiesto agli ascoltatrici e agli ascoltatori di lamentarsi, perché il dottor Melegatti, a volte un dolore che avvertiamo, una contrattura che ci dà fastidio, è la conseguenza di un problema che sta a monte oppure a valle. Vogliamo fare qualche esempio? Ma l'esempio più classico è il mal di schiena, è quando abbiamo la lombalgia causata spesso da una contrattura della muscolatura posteriore paravertebrale. Questa lombalgia può essere legata per esempio a una retrazione in un soggetto che ha un'iperlordosi, a una retrazione dell'iliopsoas, che è quel muscolo che ci permette di flettere l'anca. Quando abbiamo una retrazione dell'iliopsoas, e questo può accadere per esempio in persone che stanno a lungo in macchina o che stanno a lungo sedute, in persone che devono per lavoro portare dei tacchi alti, allora questo, la retrazione di questo muscolo che è così utile nella deambulazione, può creare una disfunzione più in alto, quindi a livello lombare. Ecco perché l'osservazione del paziente, della persona, in modo globale, e valutare il paziente non solamente nella zona da cui parte il dolore da lui riferito, ma anche osservarlo sopra e sotto, è fondamentale per capire tanto della sua postura e quindi tanto anche della sua situazione patologica. Dottor Melegatti, la postura dipende dalla ciascuno ha sulla sua tipica caratteristica postura, che dipende anche dalla forma fisica, ma anche da cambiamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni. Mi sto riferendo ad esempio al sovrappeso. Ci sono persone che si portano nel corso della vita, no? Dei chili in più, che alla fine pesano non a caso proprio sulla postura. E ci sono tra queste persone che hanno già magari un problema nell'appoggio, penso alle persone che hanno i piedi piatti. Ecco, quanto il peso può incidere su problemi posturali? Ma incide parecchio, effettivamente la postura è qualcosa che cambia con noi e quindi ci accompagna per tutta la vita, e il peso è uno sicuramente degli elementi che possono variare la postura in meglio o in peggio, e quindi, così come tanti altri fattori come per esempio la masticazione, come abbiamo visto che è veramente importante e molto affascinante come campo, come l'appoggio plantare, come gli stimoli esterni, come la genetica, perché purtroppo se abbiamo dei genitori che ci regalano una buona struttura, questa poi ci permette di sopperire a tanti problemi che incontriamo nella nostra vita. E comunque è vero che il controllo del peso è fondamentale anche sotto questo aspetto. Cristina ci chiama da Torino all'800 24 00 24. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Io volevo porre una domanda. Ho 52 anni, ho fatto un'ecografia e mi è stata rilevata una modesta tendinosi bilaterale del sovraspinato. Io ho fatto degli ultrasuoni, sono stata anche da un osteopata, però ho avuto dei lievi miglioramenti. Volevo capire se poteva in qualche modo intervenire per risolvere definitivamente il problema. Definitivamente, una parola difficile. Dottor Melegatti. Le cause della tendinosi sono veramente svariate. C'è una correlazione con la postura. Noi vediamo molte situazioni tipo la tendinosi della cuffia, dei rotatori, in soggetti che hanno un atteggiamento posturale di dorso curvo, di spalle in avanti. Questo limita lo spazio anatomico entro cui i tendini della cuffia, il sovraspinoso in particolare si muovono. E quindi ecco che un atteggiamento posturale troppo chiuso in avanti, cifotico, con spalle in avanti, può favorire l'usura nel tempo, la sollecitazione esagerata nel tempo di questo tendine. Quindi sicuramente nella bagaglio del trattamento che si propone a una persona che soffre di questo problema qui esiste anche sempre un controllo posturale. Controllate la vostra postura, dottor Melegatti, diamo delle indicazioni. Testa sul collo, pensiamo di averla tutta, ma dove tenete il collo e soprattutto muovendolo avvertite qualche tensione? 800 24 00 24, scendiamo lungo la schiena che è un po' il nostro tallone d'Achille, individuiamo la zona della schiena in cui avvertiamo tensione, dolore, oppure tutte le volte che alzandoci da una sedia, da una seduta, ci viene istintivo metterci proprio le mani dietro la schiena, quasi un po' a sorreggerla, e poi scendiamo alle gambe, le ginocchia. Attenzione, Alessandra Callegari ha invitato le persone che magari hanno sentito che erano sedute, adesso si sono alzate, le ginocchia sono rigide oppure leggermente flesse, e poi andiamo ai piedi che su cui noi poggiamo, ma che usiamo naturalmente per camminare. Anche la forma, la costituzione, diciamo così, dei nostri piedi può darci delle indicazioni, e il tutto come lo condiamo con il nostro stato emotivo, che sicuramente incide sulla nostra postura. Le emozioni pesano. Essere e benessere. C'è un mal di schiena che non mi fa dormire. E noi torniamo ad affrontare il tema del giorno. Oggi parliamo di postura, quindi di tutta quella serie di sofisticati meccanismi che controllano il nostro equilibrio, nello stesso tempo ci permettono di muoverci nello spazio con disinvoltura, rispettando una regola fondamentale: il massimo del comfort con il minimo dispendio di energia. Il guadagno è assicurato, lo conferma una ricerca. Secondo una ricerca americana, adottare una postura corretta non solo evita di incappare in dolorosi mal di schiena, ma aiuta l'autostima e fa sentire più sicuri di sé. Lo dimostrano gli esperimenti condotti dal team di Scott Wiltermuth della Marshall University in California. I volontari, obbligati a tenere una posizione eretta, schiena e spalle dritte, testa alta e sguardo diretto, erano più sicuri se dovevano affrontare una discussione con un interlocutore. Quelli che invece parlavano tenendo schiena curva e spalle basse erano meno sicuri degli altri. Una posizione ben eretta, spiegano i ricercatori, ha anche un altro effetto collaterale positivo: fa avvertire meno dolore. È stato dimostrato che stare dritti aumenta la produzione di testosterone, ormone che alza la soglia del dolore e fa diminuire i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Questo cortocircuito rende meno intenso e duraturo lo stimolo doloroso. Allora tiriamoci su, Alessandra, schiena e spalle dritte, aperte. Ombelico mobile, sì, come rilassato. Insegna Daniele Belloni. Ma infatti quello che dicevamo, importante. No, dicevamo prima, che spalle dritte non deve coincidere però con rigidità, quindi dobbiamo riuscire, proprio sentendoci come dicevi tu con l'arco del corpo, a bilanciare le due cose. Perché se abbiamo la muscolatura addominale contratta e in corrispondenza le natiche contratte, di fatto blocchiamo il respiro, cioè tendiamo ad avere, a non lasciare che sia mobile il famoso diaframma, no? Il mitico muscolo che con la sua mobilità in su e in giù permette appunto di aprire di più la gabbia toracica in fase inspiratoria e permette poi di contrarre, no? di espirare in maniera più libera e più completa. Quindi un'ampia mobilità del diaframma, e che coincide, che richiede un'ampia, come dire, rilassatezza, certo, no? Pur nella tonicità della muscolatura addominale, garantisce la possibilità di respirare in maniera più ampia e profonda. Questa è una delle indicazioni per ritrovare una postura corretta, respirare? Allora, le due cose sono collegate, cioè una postura non corretta ci impedisce di respirare bene. Se respiriamo in maniera, diciamo, libera e profonda, è verosimile che la nostra postura sia più corretta. Sentiamo Raffaele da Milano. Intanto, dottoressa Vismara, i nostri amici, alcuni dei nostri amici che hanno ascoltato il suo test, ci hanno mandato il risultato, lo commenteremo tra poco. E all'ascoltatore che mi chiede al 349-238-6666, scusi, ma 50 passi dove li faccio in casa? Rispondo che, come detto dalla dottoressa Vismara, noi marciamo sul luogo, quindi possiamo farlo anche in una piastrellina di un monolocale. Raffaele da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Raffaele, ho 39 anni, appena compiuti tra l'altro. Auguri. Grazie. E peso 75 kg, quindi diciamo non sono un sovrappeso, abbastanza magro. E ho diciamo un leggero problema di lordosi, probabilmente. Sì. Per capirci ho fatto il test che consigliavate poco fa, appoggiandomi alla parete. Bravo Raffaele, mi dà molta soddisfazione. E si è fatto questa autodiagnosi? In realtà ieri, quando ho sentito si parlava di postura, mi sono messo la sveglia oggi per... Veramente? Carino. Allora Raffaele, lei si è fatto un'autodiagnosi e forse ha un problema di lordosi. Sì, in realtà l'ho sempre notato un po'. Per capirci, nel test che ho fatto, dietro la schiena, diciamo, di mani ne entrerebbero un paio di mani. Allora vediamo se il dottor Melegatti le dà un paio delle sue mani come aiuto. Dottor Melegatti, intanto voglio dire a Raffaella di non preoccuparsi. La lordosi di per sé non è un problema. Sì. Raffaella deve solamente fare mente locale e pensare a tutti i più grandi atleti, hanno un atteggiamento lordotico evidente, ma con questo non vuol dire che questo si debba per forza tramutare in un problema più avanti, in un problema di dolore. Il motto, per riprendere anche quello che diceva Alessandra prima, è che noi dobbiamo pensare di avere la muscolatura forte e flessibile. Quando abbiamo la muscolatura forte e flessibile siamo in grado di mantenere una buona postura, di controbilanciare i problemi legati proprio alle contratture muscolari e quindi di allontanare assolutamente i problemi tensivi, i dolori o le cose negative che ci possono capitare. Quindi muscolatura forte e flessibile, rinforzo muscolare, stretching e controllare la postura di tanto in tanto. Enea ci scrive: ma cosa fare per modificare o migliorare la propria postura? Pilates, panca, fit palestra, quali consigli? Ci sono tantissime metodiche da utilizzare, quelle che sono state citate sono valide. È chiaro che prima di tutto bisognerebbe inquadrare il tipo di postura, capire se è una postura che ha veramente bisogno di una variazione o di un aggiustamento e poi scegliere la migliore tra le metodiche, che sono veramente svariate. Sono metodiche assistite oppure ci sono anche tecniche autoassistite che il paziente può gestire da sé. Beh, mi sento di aggiungere, visto che non è stata citata, la bioenergetica, anche perché ricordiamocelo, non abbiamo citato la bioenergetica, che abbiamo Alessandra Callegari qua. Perché oltretutto mi sento di aggiungere, ricordiamoci che il nostro corpo può funzionare e lavorare benissimo in quanto tale, nel senso che va bene usare gli attrezzi, ma a questo punto davvero con qualcuno che ce li fa usare con criterio, ma torniamo al sano corpo libero, cioè ricordiamoci che possiamo lavorare sul corpo così com'è. Sì. Vero, dottor Melegatti? Assolutamente sì, è fondamentale. È chiaro che ci sono poi delle eccezioni, delle situazioni per le quali il solo corpo libero può non essere adeguato, come per esempio, ma stiamo parlando veramente di situazioni di nicchia e estreme, ma per la maggior parte delle persone sono assolutamente d'accordo. 800 24 00 24, se volete lamentarvi, suggerirci anche delle indicazioni. Vi ricordo che il nostro hashtag di oggi è pancia in dentro, petto in fuori, ma declinato secondo le indicazioni dei nostri ospiti. Dottoressa Vismara, Valeria mi ha scritto: ha fatto il test, quello delle majorette, nella piastrella del monolocale. Io mi sono ritrovata completamente girata, con il foglio sono rimasta rivolta dallo stesso lato. Ok, Allora, intanto può provare a vedere che cosa succede se sposta la posizione della lingua, di cui non abbiamo parlato per non sovraccaricare. È qua che, sì, ecco. Andiamo quindi, a questo muscolo straordinario, esatto, e forte. E quindi può provare a posizionare, a vedere se si raddrizza posizionando la lingua nel punto dove dovrebbe stare a riposo, cioè dove ci sono le rughe palatine, dove diciamo la lettera L. L. Ok, e quindi può riprovare il test con il fogliettino e con la lingua riposizionata nel posto giusto. E poi volevo dire una cosa a proposito della correlazione del dolore che però viene a distanza. Sì. Il serramento delle mandibole è un classico esempio che può provocare, tra l'altro di natura squisitamente emotivo, il digrignamento o il serramento, che può provocare un dolore a livello cervicale, per cui spesso un dolore a livello cervicale viene da più in alto, quindi anche Vedi. Lì la visione o dall'alto globale. O dall'alto al basso. Volevo fare Alessandra parla, sì, che abbiamo Paolo da Bologna. Velocissima, sono d'accordo, il fatto di stringere la mascella è molto legato alla rabbia trattenuta, quindi lavorare sull'emozione della rabbia serve a mobilizzare, rendere più morbida la mascella e quindi Vedi, eccetera, se no viene eccetera. Chi la fa l'aspetti, no? Paola da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Lei come sta? Lingua, lordosi, ha fatto tutti i test? Ho fatto tanti test, però io volevo dire a 65 anni si fa ancora qualcosa? Ma certo, Paola, oi, non ci buttiamo mica vive. Ma certo. Via. No, perché appunto no, io più che altro la schiena è messa male sicuramente dalle tante fatiche, ma avendo avuto un fegato un po' disastrato, non potendo mai prendere antinfiammatori, io ascoltavo perché... Cioè, ha detto questi magari qualche idea me la danno, gliela diamo? Idea me la danno. Dottor Melegatti si prepari e anche la dottoressa Vismara e Alessandra Callegari, perché noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Occhio anche alla vostra postura mentre guidate, chiamateci se il vostro collo si lamenta, se è particolarmente avanti. Essere e benessere. Dottor Melegatti, 2 minuti di tempo per dare un suggerimento a chi come Paola si sente un po' avanti negli anni, che poi non è così, ma comunque con la schiena un po' a pezzi. Si può fare qualcosa? Certo che sì. Si deve, se è vero che riusciamo a cambiare la postura di un soggetto in età evolutiva, quindi quando è piccolo, cioè a intervenire in maniera importante. A maggior ragione interveniamo anche in maniera assolutamente altrettanto importante in pazienti un po' in là con gli anni. Recuperare concetti di movimento articolare, di mobilità degli arti, del collo, del rachide, esercizi molto semplici di allungamento, cambiamenti delle posture, evitare di rimanere troppo a lungo in una determinata posizione, come lo stare seduta a vedere la televisione o a sentire la radio o troppo in macchina, semplici accorgimenti nel senso di migliorare il movimento articolare sono fondamentali. Quindi tante volte basta muoversi. Basta Voglio muoversi. Leggervi alcuni sms che arrivano al 349-238-6666. Il Nordic Walking per la postura va bene, ci scrive Marco da Firenze, dottor Melegatti? Sì. Va bene, certamente, va bene se è impostato in maniera corretta, nel senso è un'attività impegnativa il Nordic Walking, poi dipende da come uno lo fa naturalmente, ma se uno decide di impegnarsi in maniera importante 2-3 volte alla settimana in questo tipo di allenamento, varrebbe la pena che fosse valutato dal punto di vista kinesiologico, posturale, per poter avere determinati consigli. Per poi andare, certo. Leonardo invece dalla provincia di Varese ci scrive: ragazzi, ballate, migliora la postura, migliora l'umore, allontana i malanni. Lo sposo. Sono d'accordo con quest'ultima cosa, ballare fa benissimo, ma volevo aggiungere alla signora di prima, Paola, io vado per i 59 anni e devo dire che fare bioenergetica è utilissimo, perché poi si può dosare la tipologia degli esercizi, quindi veramente ci sono anche classi di esercizi bioenergetici per over 60 e vanno benissimo perché sono adatti ovviamente alle possibilità, quindi non demorda, allora, si può fare fino a 80 anni. E oltre, dottoressa Vismara, è per lei anche allora, il bruxismo. Io sento di dire alla signora Paola di dare un'occhiata alla dinamica della sua masticazione, perché con l'età in effetti denti sostituiti, denti che si consumano, può esserci una perdita di una funzionalità e si può manifestare anche con delle problematiche dolorose a discendenti, e quindi questa è un'indicazione che le do, e poi anche di consultare magari un bravo medico naturale, perché ci sono dei rimedi naturali, omeopatici, omotossicologici, fitoterapici, che possono sostituire egregiamente quelli antinfiammatori di sintesi, che senz'altro il suo fegato non insomma danno Paola fastidio. L'abbiamo presa coccolata, proprio ha fatto bene. Senta dottoressa Bismara, Mauro mi chiede: anche il bruxismo notturno rientra nella sfera dell'emotività e provoca disagi posturali? Sì, è proprio anche quello notturno. Quello diurno è diciamo squisitamente da controllare e da curare con un lavoro di tipo psicoemotivo. Quello notturno può essere contenuto, diciamo, e reso più innocuo attraverso dei dispositivi tipo Bite, a inibizione muscolare selettiva, cioè molto, molto ben strutturati e ad personam, che possono aiutare assolutamente a evitare che la contrazione costante dei muscoli masticatori vada a riflettersi a livello del collo, perché è proprio un'equazione. È lì che batte, sì, vero? Sì, è lì che batte. Molti non se ne rendono conto, ma è veramente un'equazione quasi scontata. Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Siamo qua per lei. Ecco, perfetto. Ecco, io volevo intervenire in questo senso, nel senso che la postura, sono uno che ammette e sa che la postura è veramente una cosa fondamentale, però spesso viene trascurata da parte dei più giovani, spesso dai genitori. Ad esempio, io faccio esempi banali, quelli le ultime mode, le mode dei pantaloni calati dietro il sedere di questi ragazzetti che vanno a far gritare il bacino in avanti e creano nel tempo appiattimenti di lordosi lombare, oppure le scarpe senza plantare che portano questi ragazzetti veramente a sbagliare già dall'inizio la postura, per cui a portarsi poi negli anni problemi reali, quelli che conosciamo tutti, da mal di schiena. Per cui veramente, quindi aggiungiamo anche la moda sì, influenza la postura. Sensibilizzare i giovani veramente a stare attenti a queste cose, perché poi ecco, se il problema posturale si risolve da ragazzetti è estremamente più semplice. Poi che arrivati a una certa età bisogna cercare di risolvere il dolore, ma il problema posturale ormai penso che sia andato per i casi più importanti. Quindi tiriamoci su le braghe, come si dice. E siamo attenti ai tacchi, come siamo sappiamo. Siamo attenti ai tacchi, che a me piacciono molto. Tiriamoci su, alleniamoci a trovare e mantenere una postura corretta, ma direi anche positiva. Evita le tensioni, migliora l'autostima, riduce lo stress, spegne il dolore, ma i vantaggi non finiscono qui. La postura giusta è il segreto per correre bene. In linea con noi abbiamo Fulvio Massini, consulente per l'allenamento, coordinatore tecnico di Runner World Italia e autore di Andiamo a correre. Ciao Fulvio. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi. Senti, Fulvio, la corsa è gioia, è vita, è allegria, ma a volte osservando la postura dei runner si fa fatica a crederlo. Ma sì, a volte i runner sembrano dei depressi, ma sembrano persone che ce l'hanno un po' con il mondo. In realtà la corsa serve proprio a migliorare anche il rapporto mentale, non soltanto con lo sport, ma con tutta la vita. Per cui per far questo, per cercare di ottimizzare questa postura, bisogna anche avere un atteggiamento sia mentale che proprio posturale adatto. E quindi non più queste feste basse, queste spalle in avanti, ma queste feste belle diritte con lo sguardo rivolto in avanti, e quindi con tutto questo baricentro che si sposta avanti, in modo da avere anche una visione mentale positiva nei confronti della corsa, non soltanto della corsa ma anche della vita di tutti i giorni. Senti, a proposito di postura, tu da anni, Fulvio, insegni un metodo di corsa un po' controcorrente, diciamo così, perché la postura che suggerisci richiede delle correzioni alla postura che sembrerebbe invece più naturale. Ma sai, io a questo ci sono arrivato per esperienza personale, perché anch'io soffrivo di difetti posturali, e quindi quando ho visto il mio mestiere correre, o dopo risolvere il problema di correre, ho cercato di capire come fare a correre senza farmi male. Ecco, ma allora vogliamo svelare la postura ideale per correre bene senza farsi male? Come dobbiamo centrarci? La postura ideale si basa nel cercare di spostare il baricentro leggermente in avanti. Quindi non più partire da una posizione retta in cui l'appoggio avviene con la parte posteriore del tallone, ma questo spostamento del baricentro in avanti, come se ci fosse un filo che ci tira via dall'ombelico, permette di appoggiare di pianta piena, e di conseguenza i passi avvengono in successione senza dover inevitabilmente frenare e poi accelerare, come si fa quando si usa il sistema, il vecchio sistema, cioè dell'appoggio dei talloni, e si fa la vecchia rullata. Così facendo tutto viene in modo molto naturale, le gambe vanno via da sole e uno non fa altro che seguire le gambe, togliendo tutte le tensioni che ci sono sulla schiena, sul collo, sulle spalle. Le gambe vanno via da sole. Passo questa frase al dottor Melegatti. Beh, sarebbe un sogno. È straordinario. Per tante persone. Sì, è una metodica, questa è decisamente interessante. Sarebbe molto interessante poter valutare dal punto di vista davvero scientifico il risparmio energetico di questa metodica e veramente l'efficacia dal punto di vista biomeccanica, dal punto di vista biomeccanico di questo, però è molto interessante. Perché Fulvio, correndo nel modo, insomma, tirati in avanti da un elastico, è così? Mi sono ti visualizzo sì, in questo modo? Immaginati un elastico, sì. Qualche cosa che ti tira in avanti per l'ombelico, perché per avere un'idea dello spostamento del baricentro, di queste caviglie che non stanno più rigide, va bene, ma che si vedano, ma che si sentano proiettate a spostare il corpo in avanti. Chissà se tra i nostri ascoltatori ci sono tanti runner, lo sai Fulvio, tra i nostri ascoltatori, se qualcuno conosce il metodo e pratica soprattutto il metodo Massini, 800 24 0024, lo invitiamo a chiamare e intervenire in diretta, perché questo metodo in qualche modo risparmia i muscoli posteriori delle cosce e anche i muscoli della schiena, che invece con la rollata classica vengono in qualche modo più sollecitati e quindi messi più a rischio. Esattamente. Ma vedi che so, Fulvio, ormai sentendoti ormai imparo, mi dovrò correre anch'io, sfidare Cruciani. Vedo che hai studiato. Vedi che ho studiato, grazie a Fulvio Massini. Mi farò preparare da Fulvio per sfidare il grande Giuseppe Cruciani. Francesca, buongiorno da Roma. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Piacere sentirti. Grazie. Io chiamo perché non sono una runner, ma amavo molto camminare. Sì. E da 3 anni circa ho iniziato ad avere problemi di tendinite ai piedi e quindi ho iniziato a fare un esame posturale che prima non avevo mai fatto e mi hanno detto che ho un piede cavo. Al che ho iniziato l'iter di tutte le visite e in ordine mi è stato consigliato plantare, assumere anche magnesio per rilassare la muscolatura e poi anche una terapia un po' bizzarra che è una sorta di agopuntura all'orecchio, si chiama convogliatore di radianza modulante. Volevo sapere i tuoi ospiti, magari la dottoressa forse... La dottoressa Vismara ti ispira? Allora, dottoressa Vismara, Francesca sì, si rivolge a lei, mi ma fa la, una domanda ecco, un po' la cosa, difficile e che viene fuori anche dal racconto dei nostri ascoltatori, e coinvolgo anche il dottor Melegatti, che quando uno deve risistemare la postura si trova una serie di impegni da assolvere, anche economici, passare da un medico all'altro, metti a posto questo, metti a posto l'altro. Francesca ci racconta, è andata anche dal logopuntore. Dottor Melegatti, dottoressa Vismara, abbiamo 30 secondi, semmai poi rispondiamo anche a Francesca via Facebook se ci scrive. Dottor Melegatti. È un problema, ci vuole la persona giusta, ci vuole la persona che abbia una visione d'insieme e che riesca a valutare la persona nella sua globalità. Chi ci dice che non esista un problema di deficit di forza muscolare di alcuni gruppi muscolari della gamba nella signora e che non crei sovraccarico a livello per esempio della struttura tendinea, del tendine d'Achille? Cioè è una valutazione. Ma qual è il medico di riferimento o l'esperto? Non necessariamente medico, ci sono delle figure del fisiatra e? In genere il fisiatra o l'ortopedico, l'osteopata o l'ortopedico che si occupa di postura. Devo salutarvi, torneremo sul tema, grazie ai miei esperti, affilate le unghie, domani parliamo di loro, buona giornata. Essere e benessere.